componimento ottantunesimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Io son sì stanco sotto il fascio antico delle mie colpe e dell'usanza ria, ch'i temo forte di mancar tra via e di cader in man del mio nemico. Ben venne a dilivrarmi un grande amico per somma ed ineffabil cortesia. Poi volò fuor de la veduta mia, sì ch'a mirarlo indarno m'affatico. Ma la sua voce ancor qua giú rimbomba: o voi che travagliate, ecco il camino, venite a me se il passo altri non serra. Qual grazia, qual amore o qual destino mi darà penne in guisa di colomba, chi mi riposi e levimi da terra? Fine del componimento.